Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il mondo è un palcoscenico, diceva Shakespeare, e gli uomini e le donne non sono che attori con le loro uscite e le loro battute. La vita stessa è una rappresentazione teatrale dove ognuno di noi mette in scena tutti i suoi personaggi. E nella vita come nel teatro, tragedia e commedia convivono, si danno senso a vicenda, si nutrono l'una dell'altra. Oggi a Destini Incrociati racconteremo che sono le lacrime a dare sapore alle risate. Scusa, fammi parlare. Sono Gassman. A parlare il nostro primo protagonista, l'avete sentito, non ha bisogno di presentazioni. È uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi, dirompente, versatile, monumentale. Il suo nome è Vittorio Gassman. Vittorio Gassman. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. Vittorio Gassman riempiva la scena con il suo corpo statuario ed atletico, la voce ferma e potente, lo sguardo magnetico. Con la sua morte nel 2000 si è creato un vuoto incolmabile nel mondo del teatro. Eppure il suo destino, almeno all'inizio, sembrava essere un altro. Non ci pensavo proprio a far l'attore. Volevo scrivere quando ero ragazzo. E quindi questo l'ho raccontato spesso ed è vero. È stata mia madre che evidentemente ci aveva un che di istrionico dentro e mi ha quasi obbligato a diventare attore. Un talento innato che ha bisogno di una voce esterna per prendere coscienza. Una spinta del destino che non sarà l'unica della sua vita ricca di emozioni e passione. Vittorio Gassman è un attore drammatico potente, espressivo, intenso. Ma oggi parliamo soprattutto di versatilità. Una dote che si coltiva con l'esercizio, ma anche con l'aiuto del confronto. È dal confronto che nasce la svolta nell'esistenza dell'attore che troverà nella versatilità la sua massima caratteristica. Siamo a Genova, negli anni 20. Heinrich Gassman, un ingegnere edile tedesco dal fisico imponente, ha sposato Luisa Ambron, di origini toscane. Dal loro matrimonio, nel 1922, nasce Vittorio. La prima guerra mondiale è finita da poco e c'è voglia di rinnovamento. Einstein ha appena vinto il Nobel per la fisica e in Egitto l'archeologo inglese Howard Carter scopre nella Valle dei Re la tomba del faraone Tutankhamon. In Germania si proietta per la prima volta Nosferatu il vampiro, caposaldo del cinema espressionista liberamente ispirato a Dracula di Bram Stoker. Ma nonostante l'apparenza, questi anni ruggenti covano germi pericolosi. È proprio nel 22, infatti, che Stalin diventa segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, mentre Mussolini in Italia, due giorni dopo la marcia su Roma del 28 ottobre, riceve da Vittorio Emanuele III l'incarico di primo ministro e forma il nuovo governo. È il primo anno dell'era fascista. Noi crediamo che l'Italia, sotto la guida e Vittorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini, arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Il piccolo Vittorio ha solo 6 anni quando si trasferisce con la famiglia a Roma. Frequenta il liceo Tasso e contemporaneamente comincia la sua avventura sportiva. La pallacanestro, complice l'altezza 1,91, è perfetta per lui, che fa di una iniziale passione qualcosa di più. Partecipa a 2 campionati di Serie A e disputa persino alcuni incontri in nazionale. Il rapporto tra lo sport e lo spettacolo era molto presente nel suo modo di fare teatro. Addirittura in bottega, alla sua scuola di teatro in Firenze, c'era un esercizio obbligava gli attori a recitare facendo rimbalzare una palla e assecondando il ritmo della palla. La voce che avete sentito è di Alessandro, uno dei 4 figli che Vittorio avrà nel corso della sua movimentata e accesa vita sentimentale. Gassman si sposerà 4 volte, sempre con attrici, e da ogni matrimonio avrà un figlio. Coerente con se stesso e fermo nella volontà di combattere le ipocrisie, darà scandalo coi suoi divorzi negli ancora puritani e chiusi anni 50 e 60. Ma Vittorio ama la vita e con essa ama le donne, senza risparmiarsi. Anzi... Sono stato sempre sedotto, non ho mai sedotto nessuno, sono stato sedotto e al momento giusto anche abbandonato. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. Siamo a Roma nel 41, quando Vittorio consegue la maturità classica e sceglie giurisprudenza, mentre sua madre, quasi a sua insaputa, lo iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, diretta da Silvio D'Amico. Lui intanto continua a fare sport, alla pallacanestro unirà la scherma e il pugilato, e non lascia il suo primo amore, la scrittura. Vittorio è impaziente. Oltre all'attività sportiva e allo studio, c'è il crescente interesse nei confronti del teatro. Nel 43 abbandona l'accademia e calca per la prima volta un palcoscenico. Non deve neanche passare dalla gavetta. Grazie al suo talento poderoso e alla sua straordinaria presenza scenica, il mondo del teatro più raffinato e snob lo accoglie immediatamente a braccia aperte. Per lui è un successo via l'altro, che lo porterà a soli 30 anni a essere il più giovane Amleto della storia del teatro italiano. Essere, non essere, qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto? Ma il momento è difficile. Siamo nel 43-44, quando Vittorio Gassman sta portando in giro il suo primo spettacolo, La nemica di Nicodemi, e la guerra è in pieno svolgimento. I mesi di tournée tra coprifuoco e bombardamenti, con l'Italia spaccata in due, diventano 2 anni. Vittorio però si rende conto che la sua unica vera passione è il teatro. In esso trova conferma del suo io particolarmente ingombrante. Il suo successo lo appaga, ma non lo porta alla perfezione che è tormento, ricerca, discussione. Un tormento che lo segue però nella vita. E dell'immediato dopoguerra il suo primo divorzio. Gassman avrà sempre una vita privata piena e tormentata, fatta di grandi amori e grandi dolori, momenti di incredibili gratificazioni e altri di profonda insicurezza. È un uomo ricco di contrasti, razionale e lucido da un lato e dall'altro in preda a manie e tic. Il suo igienismo, per esempio, è passato alla storia, come conferma il figlio Alessandro. Città che riteneva non sufficientemente pulite, a suo modo di vedere, fingeva sempre un male alla mano, quindi quando gli chiedevano la mano diceva: scusi, le do il dito, c'ho la mano rotta, scusi, dava sempre il dito o il gomito addirittura, apriva i bagni coi gomiti, faceva queste cose qua. Il suo genio e la sua natura creativa fanno da contraltare a un perfezionismo minuzioso. Gassman affida le sue paure a rituali quasi scaramantici. Per esempio, continua a scrivere, porta sempre con sé un quaderno per gli appunti, come per soddisfare la smania di tenere tutto sotto controllo. Per me le cose avvengono solo se io le ho scritte prima. Poi a volte scrivo cose che non si verificano e a me non mi importa niente nella sostanza. Mi interessa averlo scritto e io le cancello, è come se fossero esistite. Vive di grandi emozioni Gassman. La sua vita è costantemente in bilico tra il dramma sul palco e quello nella vita. Se da un lato rifugge l'ipocrisia della morale comune, si diverte a essere provocatorio e impopolare, dall'altro soffre il peso del giudizio, ricerca l'approvazione del pubblico e degli addetti ai lavori. Quest'altalena di contrasti arriverà a portarlo alla depressione. Ancora una volta è suo figlio Alessandro a raccontarlo anni dopo. Era un uomo molto vulnerabile, era assurdo, un uomo di 70 e passa anni, col successo che aveva, venerato, premiato in tutto il mondo, vincitore di Cannes, nomination all'Oscar, insomma qualunque tipo di premio possibile. Bastava una critica negativa per mandarlo in depressione, per distruggerlo. Quella italiana è una felicissima stagione cinematografica. Gassman dovrebbe cavalcare l'ondata neorealista, ma non ottiene il successo atteso. Evidentemente il suo piglio attoriale è troppo strutturato per il cinema verità del tempo. Nessuno vuole un attore che si muove come sul palcoscenico anche davanti alla macchina da presa. I suoi esordi sono costellati di film che nessuno ricorda. nei primissimi addirittura proprio lui, l'attore dalla voce indimenticabile, viene doppiato. Vittorio Gassman, conclusa la sua fortunata stagione teatrale 1954-55, è partito da Ciampino diretto negli Stati Uniti. Lo chiama a Hollywood un contratto con una grande firma cinematografica americana, in base al quale il giovane attore italiano interpreterà diversi film. Hollywood negli anni 50 è al suo massimo splendore e il punto di riferimento per il cinema mondiale. I film sono a colori, si impongono i drive-in e c'è una grande spinta produttiva dettata dall'esigenza di contrastare la neonata televisione. Sono gli anni in cui viene abbandonato il codice di autoregolamentazione nella produzione dei film, deciso da Hayes, e si cominciano ad affrontare liberamente tematiche un tempo tabù. Soprattutto la Hollywood di questi anni suggella il trionfo di due miti intramontabili, Marlon Brando e James Dean. Il primo, nel 1954, interpreta con il selvaggio il ruolo dell'eroe inquieto, randagio, rozzo e romantico. Il secondo, dopo la Valle dell'Eden del 1955, è il ribelle senza causa e senza bandiera di gioventù bruciata. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! Sono esempi lontani dalla tempra artistica di Gassman, per il quale non è ancora il momento di sfondare sul grande schermo. Nemmeno Hollywood riuscirà a rendere giustizia al suo talento di attore di cinema. Gassman è come imprigionato in un ruolo drammatico che non gli permette via d'uscita. Gli inibisce ogni chiave di interpretazione dei personaggi, gli preclude la via del dialogo con il pubblico, che apprezza il suo portamento, ma non ne comprende la rigida maschera di attore tragico che si è cucito addosso. Un destino, il suo, che verrà cambiato dall'incontro artistico che ne condizionerà il futuro. Non è facile raccontare chi è Gassman, inserirlo in categorie, mettergli etichette. Di certo è coltissimo e curioso, intelligente, con una memoria di ferro. Scommette spesso che gli basta leggere una pagina due sole volte per memorizzarla e incredibilmente ci riesce. È orgoglioso, cinico e severo. La leggenda racconta che lanciasse scarpe dalla platea ai suoi allievi che provavano sul palcoscenico e, vista la sua carriera di cestista, spesso riuscisse anche a colpirli. Gassman sa che al primo impatto risulta spesso antipatico, altezzoso, pieno di sé. La cosa, con un velato snobismo, gli fa quasi piacere. Eppure chi lo conosce lo adora e ne fa un ritratto di uomo creativo, disponibile e di grande compagnia. Lui aveva una qualità rara che nessuno gli riconosce, ma io, che l'ho vissuto nei momenti più belli, era la persona più divertente in assoluto. A parlare è Paolo Villaggio, amico storico di Vittorio e suo compagno di lavoro nel corso degli anni. Racconta di un Vittorio simpatico e buffo giù dal palcoscenico, il che è completamente in contrasto con i ruoli seri, impegnati e dal profilo pesante che interpreta a teatro fin dal suo debutto. Sotto la maschera cova uno spirito ironico e goliardico. Nel 1958 succede l'imprevedibile. Un regista italiano tra i più bravi e famosi sta cercando Vittorio per il suo nuovo film, e non per un ruolo drammatico, bensì per interpretare il personaggio di un proletario goffo, sciocco e divertente. Quel regista si sta muovendo per scritturare Gassman contro il parere dei suoi produttori, increduli e preoccupati. Tutti, infatti, nel settore considerano Gassman un attore teatrale impegnato, drammatico, certamente inadatto al ruolo comico e amaro di un pover'uomo a cui la vita riserva sconfitte e derisioni. È un rischio per la riuscita commerciale del film. Chissà cosa avrà trovato quel regista nell'attore romano da volerlo a tutti i costi, eppure ci riesce. Gassman è lusingato dall'offerta. Certamente all'inizio è incredulo, non vogliono il suo portamento, la sua bellezza, anzi, tutte le sue caratteristiche vengono progressivamente annullate. Un parrucchino corto e tappi di gomma alle orecchie per togliere a Gassman l'aspetto del grande attore dell'Ottocento e dargli un'aria gigiona e buffa. Gassman sta per vivere la svolta che gli cambierà la carriera, grazie all'incontro con quel regista, Mario Monicelli. Mario Monicelli. Sono Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo la storia di un grande attore e un grande uomo, Vittorio Gassman, il monumentale e indimenticabile mattatore della risata. Ma il suo percorso non è stato lineare. Dopo gli esordi a teatro, tenta la strada del cinema. Viene chiamato anche a Hollywood. Ma se a teatro il successo è indiscusso, i risultati sul grande schermo sono mediocri e i film che interpreta trascurabili. Bisogna aspettare il 58 e un grande regista, Mario Monicelli, perché anche il cinema gli spalanchi le porte. E Paolo Villaggio a parlarne. Monicelli, quando l'ha raccolto da Hollywood, dove ha sposato Shelley Winters e faceva delle cose oscene, gli ha fatto fare soletti ignoti e ha capito che aveva bisogno di alcune modifiche. Le modifiche riguardano sostanzialmente l'aspetto fisico di Gassman, così imponente e atletico, dal profilo importante, tutte caratteristiche che gli conferiscono un'aria nobile e altezzosa e che in teatro sono state fondamentali nel determinare il suo successo di attore drammatico. Monicelli, invece, ha bisogno di una figura meno aristocratica e più proletaria. È lui stesso a raccontarlo. Era un bell'uomo, alto, snello e così, quindi tutto un po' per farlo diventare da borgata, bisognava volgarirlo. E allora gli fa mettere del cotone nel naso per costruire un ostacolo alla sua perfetta dizione, che in questo modo diventa piena di difetti, sporca. Poi, per togliere l'attenzione dal suo profilo importante, gli fa indossare un parrucchino corto che gli abbassa la fronte spaziosa, mentre grazie a un trucco pesante le labbra cadenti gli danno un'aria un po' ebete, con effetti comici esilaranti. Produttori e distributori all'inizio non sono convinti. Pensano che Gassman nel cinema non funzionerà e vorrebbero Alberto Sordi. Ma Monicelli ingaggia una vera e propria lotta per averlo e dimostra di avere ragione. Il personaggio del Pantera, ladruncolo balbuziente della banda dei soliti ignoti, è un successo clamoroso. Dai, che c'è. Forza. La capanne. Invece di parlare dell'amanti, fammi aprire un bicchiere d'acqua. C'ho sete. Dice, ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro ti servono neanche che con su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Ehi! Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non peschi, è proprio la ora ed è giua. Ma io sono un palo, un pirla, non ci sto più. Io vengo via a questa banda di pistola, metto in proprio, così non ci penso più. I soliti ignoti, candidato all'Oscar come miglior film straniero, diventa in poco tempo un caposaldo del cinema italiano. Racconta di una banda di ladruncoli della periferia di Roma che, guidati da un criminale in libertà vigilata, interpretato da Totò, tentano una rapina che avrà esiti fallimentari. Del cast, oltre a Gassman e Totò, fanno parte una giovanissima Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni. Il film segna l'inizio della commedia all'italiana, storico genere che insieme al neorealismo e allo spaghetti western ha contribuito a esportare il cinema italiano in tutto il mondo. Commedia all'italiana è un termine che nasce dalla parafrasi di Divorzio all'italiana, film diretto da Pietro Germi nel 61. Matrice comune dei film del genere sono la satira di costume, le ambientazioni borghesi e soprattutto un'amarezza di fondo che dà peso ai contenuti comici, che cessano di essere fini a se stessi come era nella commedia tradizionale. I personaggi acquistano spessore, peso psicologico, non sono più burattini presi in prestito dalla commedia dell'arte. Mettono in scena la vita con le sue idiosincrasie e le sue tensioni, i suoi drammi e le sue meraviglie. Perché spesso il comico non è che l'altra faccia del tragico. Il tragico si attraggono e si respingono in una singola frase, in una pagina, in una tessitura. A parlare è Stefano Benni, grande autore che ha fatto ridere e commuovere insieme. E lo stesso ha fatto nella sua lunga carriera Monicelli, che se con i soliti ignoti vede realizzarsi la sua consacrazione, da anni lavorava già nel cinema come regista e sceneggiatore, firmando alcuni tra i più importanti film dell'epoca. La storia di Monicelli è strettamente legata alla Settima Arte. Mario Monicelli nasce a Viareggio il 16 maggio 1915 e fin da subito respira aria di spettacolo. Suo padre Tommaso, infatti fondatore della prima rivista di cinema, Lux et Umbra, è un celebre giornalista e critico teatrale. L'ambiente in cui cresce è stimolante e moltissime sono le personalità della letteratura e dello spettacolo che frequentano Casa Monicelli. Mario inizia l'università a Pisa e poco prima della guerra è già laureato in storia e filosofia. Fin da subito si intuisce che ha la stoffa per fare grandi cose, ha un carattere forte e deciso, è creativo e contemporaneamente metodico, sognatore e perfezionista, lucido e consapevole al limite della presunzione. Caratteristica quest'ultima che gli regala il soprannome che poi si rivelerà perfetto per lui, Maestro. Tutti mi chiamavano Maestro, ma anche in famiglia, a casa, voglio dire, per giocare. E poi questo gioco è rimasto fino a quando poi mi hanno chiamato Maestro credendo che la cosa fosse opportuna, invece era diventata inopportuna. E invece Maestro è l'appellativo che meglio esprime stima e affetto che conquisterà nel corso della sua carriera. Il giovane Mario ha voglia di fare, di creare, non è fatto per la teoria, per la critica, per seguire le orme del padre, insomma. Lo studio è essenziale, ma preparatorio a una precocissima avventura nel mondo del cinema. Sentiamo il racconto dei suoi esordi direttamente dalla sua voce. Fui chiamato da Giorgio Bianchi, amico mio, che era diventato regista, per fare un film di Amidei che si svolgeva sul Tevere, realistico, sempre andammo su una draga che dragava il fiume Tevere, tutta una storia un po' drammatica che si svolgeva su questa barca. Se i primi passi sul set li muove come aiuto regista, è come sceneggiatore che comincia a mietere i primi successi. Essenziale in questo senso è la collaborazione con un altro grande sceneggiatore del periodo e padre di Enrico e Carlo Vanzina, Stefano Vanzina, conosciuto da tutti come Steno, con il quale lavora gomito a gomito per ore tutti i giorni per anni. Di Steno è uno dei figli a parlarne. Ed aveva dei ritmi impressionanti, anche perché allora si facevano degli orari. Io mio padre lo vedevo da ragazzino pochissimo, perché usciva la mattina alle 8 e ritornava a mezzanotte. Non c'erano sindacati, proprio si lavorava ad oltranza. Con Steno Monicelli forma una coppia amata da produttori e pubblico. I due insieme scrivono e dirigono nel 49 Totò cerca casa, secondo incasso della stagione italiana di quell'anno, e poi una serie di altre commedie. È proprio la commedia, infatti, il primo amore di Monicelli. Mi diverte se la parte tragica, drammatica, dei risvolti comici, anche, ma anche ironici, non si pensano che siano comici, meglio. Se poi addirittura sfocia nella farsa, come capita sempre a Buster Keaton, che fanno dei film che non sono hanno una loro validità vera e propria, però vanno addirittura sui toni della farsa. Ecco, coniugare queste cose mi piace molto quando ci riesco. E ci riuscirà spesso, diventando uno dei maestri indiscussi del cinema italiano e mondiale. Ma di certo il primo grande successo, la grande consacrazione, l'approvazione della critica e il consenso del pubblico lo deve ai soliti ignoti e a uno dei suoi protagonisti, Vittorio Gassman, che ha saputo usare tutto il suo bagaglio di attore teatrale impegnato e drammatico per dare volto e voce a Air Panther, l'indimenticabile capo gang sbruffone romantico dello scapestrato gruppo di ladri. Monicelli ha lottato contro tutti per averlo nel cast, produttori, distributori, ma ha vinto e dimostrato di avere ragione. Da questo incontro, Gassman darà una svolta decisiva alla sua carriera, diventando l'indimenticabile mattatore della risata che tutti noi conosciamo. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo parlando di due colonne portanti del cinema italiano, Vittorio Gassman e Mario Monicelli, che ci hanno fatto piangere e ridere insieme, ci hanno mostrato cosa siamo e cosa potremmo essere, ci hanno emozionato e fatto riflettere. Tutto comincia nel 58, con I soliti ignoti, il film che consacra Monicelli nell'Olimpo della commedia e che per la prima volta usa lo straordinario talento di Gassman, fin qui dedito al teatro drammatico, a servizio del divertimento popolare. Alla nostra parte diciamo: femmina peccante, pigliala per amante, femmina cuciniera, pigliala per mogliera. Hai capito? È proprio buona. Si aveva la fame. Ragazzoli, ho paura che abbiamo rotto la cannella del gas, non sapete. Il film, nato quasi casualmente per recuperare le costosissime scenografie di Notti Bianche di Visconti, è esplosivo, un successo stratosferico. Viene candidato all'Oscar. Gassman, che finora viene snobbato dal cinema o relegato a ruoli di cattivo, come in Riso Amaro di De Santis, inizia a essere conteso dai maggiori registi e diventa uno dei cinque grandi della commedia all'italiana, con Sordi, Manfredi, Mastroianni e quello che è il suo grande amico di sempre, Ugo Tognazzi. Sanguigno, godereccio, irruento, così diverso da lui, eppure così complementare, come ricorda il regista Ettore Scola. Credo che Vittorio vedesse sempre questo altro attore come un fratello minore, un po' discolo. In Italia, negli anni 50 e 60, siamo nel boom della commedia. Se ne producono decine all'anno. D'altra parte, il momento è storicamente positivo, l'ottimismo è nell'aria. La miseria della guerra ha lasciato spazio alla incredibile voglia di rinascita e il miracolo economico dà il via alla società dei consumi. È l'epoca della Fiat 500, del frigorifero e della lavatrice e di Carosello. La caramella che mi piace tanto e che fa du du du du du du du du du fur. È quasi ovvio che in questo clima positivo ci sia una grande voglia di godersi il benessere, di divertirsi, di gustarsi il tempo libero, con tutte le contraddizioni di un ceto sociale urbano che non ha perso l'ingenuità e la cruda saggezza della campagna. La commedia all'italiana, divertente con un retrogusto amarognolo, è perfetta per sintetizzare vizi e difetti degli italiani che ridono dei personaggi sullo schermo per ridere di se stessi. Se il momento per la commedia è favorevole, funziona a meraviglia il sodalizio tra Gassman e Monicelli, che rivuole l'attore l'anno dopo I soliti ignoti per il suo nuovo film con Alberto Sordi, La grande guerra. Nel film, in contrasto con il romanissimo Sordi, Gassman usa un accento milanese. Sordi, dopo aver interpretato finora personaggi a senso unico, acuisce il suo spessore psicologico, da cui emerge come caratteristica principale una bontà naturale che serve a riscattare tutti i difetti. Il risultato è travolgente e la pellicola vince il Leone d'Oro. Oresta, sei contento? Di che cosa? Del premio. Quale premio? Del Leone. Quale Leone? Quello che hanno vinto. O chi è che ha vinto? De Laurenti. Monicelli. Monicelli e De Laurenti. De Laurenti e Monicelli. E noi? Noi niente. Allora andiamo. Andiamo via, dai. Gli anni successivi vedono realizzarsi un successo via l'altro per Gassman, che ormai, grazie a Monicelli, è nell'Olimpo del grande schermo. Nel 60 è un vero one-man show, né Il mattatore di risi, in cui interpreta 18 personaggi diversi, tra cui Hitler e Greta Garbo, e che diventerà spettacolo televisivo dall'incredibile successo. È la consacrazione. Gassman può esprimere tutto il suo talento istrionico. Adesso è davvero completo come attore e come uomo. Con Risi, Gassman nel 62 gira Il sorpasso, road movie che diventa un caposaldo del cinema mondiale. Cecchi Gori, il produttore, all'inizio è scettico e il film, economicissimo, viene girato in sole 6 settimane e in gran parte viene improvvisato. Ma il risultato è un ritratto attento e penetrante dell'Italia all'apice della sua ricchezza. bravo, così mi piaci. Quando ridi mi stai più simpatico. Ah, robe, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatta, si capisce? La cavalcata di Gassman continua senza interruzioni. Il 63 è l'anno dei mostri, ancora con Dino Risi, campionario sociale di situazioni e tipi che attraverso brevi episodi raccontano i vizi dell'epoca, tra tradimenti borghesi e spiagge, vigili urbani e furbizie, educazione stradale e tifo selvaggio. Bisognerà aspettare il 66 per riunire la coppia Monicelli-Gassman per un film che diventa un vero e proprio cult movie all'italiana. L'Armata Branca Leone racconta un improbabile medioevo in cui si usa una lingua maccheronica e travolgente. Il tema di fondo è il riscatto dell'antieroe, un ruolo che sembra cucirsi addosso all'anima retorica di Gassman, opportunamente stemperata dall'idioma volgare e rozzo. Gassman e Monicelli iniziano così una strada in comune che si sviluppa parallelamente a quella dell'Italia del dopoguerra. Niente è mai stato efficace come la commedia per sintetizzare vizi e virtù, speranze e delusioni, fallimenti e riscatti del bel paese. E i due artisti sono stati capaci di interpretare questo spirito, aiutandosi reciprocamente a valorizzare ciò che avevano dentro e che da soli non avrebbero mai potuto esprimere. Il cinema racconta la vita com'è, è un'arte narrativa. Il teatro cerca di migliorare la vita. È simbolico. Sono in questo senso opposti. E se i vizi tragici complicano le persone, i vizi comici le semplificano. Perché in fondo gli italiani sanno ridere di loro stessi e il senso dell'umorismo è sempre una chiave per salvarsi. Perché sarà una risata che ci seppellirà. Perché il comico in fondo non è altro che il tragico che ti ha voltato le spalle. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.